Sono contento perché Ibra è tanta roba. È tanta roba come professionista, è tanta roba come giocatore, è tanta roba come esperienza. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Di vicino Snyder, ben servito, allarga per Balotelli, possibilità, Balotelli, Sorrentino lo ipnotizza, Balotelli ancora! Cercato Balotelli, si muove bene, Balotelli! Come nel passato decennio, è lui a sbloccarla, come il 2010, déjà vu! Dunque è veramente un momento eccezionale questo per la Lazio, lo dicono le 9 vittorie consecutive, lo dice la posizione di classifica, ma lo conferma soprattutto l'impressione che dà questa squadra, capace di fare gol veramente in qualsiasi momento della partita grazie ai suoi solisti, e ha una panchina tra l'altro formidabile. La Lazio inizia il nuovo anno con una vittoria, ancora in rimonta, ancora nel recupero, 2-1, nona vittoria consecutiva in Serie A, eguagliato il record di Sven-Goran Eriksson e prova a mettere pressione su Juventus ed Inter. And it's all just a little bit of history repeating. Vabbè, come piace dire al mio amico Pardo, che saluto, ciao Pierra. Ciao, ciao, ciao. Schiattone e Ferronato non si battono, hai sentito questo montaggio? Spettacolo. Beh, grande qualità. Benissimo, per una volta sarà piaciuto anche Eva Zazzaroni. Buongiorno direttore. No, ma non lo so, non l'ho sentito. Non hai sentito, sei solito. Sei solito Ivan, senza Ivan sta guardando, credo, Bologna-Fiorentina. Bravo, sono disperato. 0-1 sempre, no? Decide Benassi. Sì, finiremo 1-1 al 92esimo. Sei ottimista, almeno in questo. Sempre stato ottimista. Senti, due piccoli... Com'è la Fiorentina di Iachini? Si vede qualcosa di diverso, di nuovo? Si vede Iachini. Difesa e contropiede. D'altra parte il vintage è molto di moda. Abbiamo riassunto prima due piccoli fatti storici. Ieri a Brescia c'è Balotelli che timbra il secondo decennio consecutivo, come nel 2010 e anche nel 2020. Qualcuno dice, l'ha detto ieri Filippo Mariarici, il problema è quello che ha fatto in mezzo o che non ha fatto in mezzo. Inzaghi, 9 come Eriksson della Lazio, dell'età dell'oro, del similoro di Cragnotti. Sono due belle suggestioni, tanto per cominciare una giornata mica male, Pierluigi. Sì, assolutamente, su Balotelli siamo sempre lì, il gol di ieri è bellissimo e la sensazione è sempre quella di lampi un po' isolati, anche se una tendenza delle ultimissime settimane al miglioramento c'è, e io sono fra quelli che tifo a favore di Balotelli perché penso che sia, lui si arrabbia se dice un patrimonio del calcio italiano, però insomma sia del talento, ci sia comunque del talento, e quindi se questo talento si ritrova penso che sia una buona notizia. Sulla Lazio sono finiti gli aggettivi, è una squadra che riesce tutte le volte a cavarsela nelle situazioni complicate, una volta può essere un caso, due volte può essere un caso, 5 volte in 5 trasferte vinte 2-1 con i gol sempre nel finale, non è più un caso, è una squadra piena di talento, qualche dubbio me lo dà la panchina perché sicuramente insomma non ha la stessa profondità della panchina, soprattutto della Juve, ancora più che dell'Inter. Però insomma è lì nella lotta. La Roma ieri si è un po' persa, un po' imballata dal punto di vista fisico, qualche polemica su Di Bello, anche se secondo me poi gli episodi sono tante piccole cose, ma gli episodi clamorosi non ce ne sono. Torino ha fatto la partita della vita e secondo me Fonseca ha fatto benissimo a fine partita a cercare di portare serenità, perché comunque la Roma chiuderà questa giornata al quarto posto in classifica con quasi 30 infortuni e secondo me non è male, è una base. È il suo grande merito, io credo, ma d'altra parte lo scrive anche quello che sentite al rumore del Corriere dello Sport, lo scrive oggi il direttore nel suo editoriale sotto il titolo Miracolazio. Ivan, ieri la Lazio, Ivan Inzaghi è stato chiesto, può vincere lo scudetto come al solito, naturalmente lui ha fatto come al solito super cazzola. Mi sembra una squadra che ha l'età della maturità. Tu cosa rispondi a questa domanda? Non è partita, è sicuramente inferiore a Inter, forse all'Inter non lo so, ma sicuramente alla Juventus. in una eccellente condizione da novembre a ottobre praticamente. Ti dico, grande continuità, la cosa che è sempre mancata, la tua fiducia, gioca fino alla fine, cerca di comunque di rimediare in qualche modo come ha fatto a Reggio Emilia, cioè col Brescia. È una squadra che ha sicuramente dei valori alti, 3 o 4, non ha una grande panchina, sono d'accordo con Pier, non ha giocato una buona partita, però quando tu vinci le partite e ti è successo più di una volta vuol dire che qualcosa è cambiato, cioè, quindi mi sembra una Lazio un pochino più matura, un pochino più convinta, e poi sai, visto il campionato è un'altra storia, cioè bisogna capire esattamente Juve e Inter in che condizioni sono, però certo è lì. Sì, certo è lì, basta leggere la classifica, è a 3 punti da quelle altre due che stanno per giocare. Il fatto è che fosse inlotito un paio di regali della Befana, mica della Befana, di Natale posticipati, quello che vuoi, a Inzaghi li farei. Facile, però Pier, almeno per blindare il posto in Champions, sì, mega per... io penso che qualcosa faranno, ma secondo me più nell'ambito della profondità della rosa, di qualche alternativa in più, perché onestamente andare a toccare qualcosa oggi nella Lazio è molto pericoloso, cioè c'è un'interagliatura, c'è una spina dorsale che parte da un portiere del quale si parla pochissimo ma che sbaglia poco, ha un difensore che è Acerbi, che secondo me è uno dei migliori in assoluto e anche di lui se ne parla oggettivamente poco, Lucas Leiva è un giocatore importantissimo, il modo migliore per sostituire Biglia, Milinkovic-Savic neanche ne parliamo, Luis Alberto vabbè. Quindi questa è una spina dorsale da 6 undicesimi che è clamorosa, e poi ci metti che in questo momento Caicedo, ma non solo in questo momento, è uno che fa solo cose utili, che Radu, che è un giocatore, anche qui se ne parla pochissimo, però è un giocatore di grande affidabilità, che Luis Felipe è cresciuto, che Lazzari il suo lo fa, insomma, è difficile andare a toccare, poi certo tutto è migliorabile, però io credo più come profondità di rosa, quindi trovare un paio di alternative in più. Sì, fresche, certo, per chiaro, una chiaro. Mano piuttosto che stare a stravolgere un equilibrio. No, ma quello è in dubbio, quello che sarebbe da fare è appunto allungare la qualità nella profondità della squadra, le rotazioni. Ivan Balotelli, puoi scrivere alla Europe Race azzurra? Ieri Immobile, Belotti, grandi notizie. Credo che non sarebbe giusto, sinceramente non sarebbe giusto, perché Immobile e Belotti hanno fatto un altro tipo di lavoro, hanno un altro tipo di atteggiamento, sono superiori secondo me a Balotelli anche sul piano tecnico, Balotelli più forte probabilmente sul piano fisico, quando è in condizione, però non stiamo parlando di fuori classe, quindi credo che Belotti e Immobile possano dare garanzie, non saranno di livello internazionale, però uno ha fatto 19 gol, cioè 19 gol in 17 partite, l'altro ha una strepitosa condizione, può essere un'ottima alternativa, quindi io non credo che Balotelli, anche se sicuramente Roberto ci starà pensando ancora, uno spiraglio glielo lascia, però ne faccio una questione anche di merito, e soprattutto sai cos'è? Che non ha quella superiorità rispetto a quei due che ti ho detto che può determinare un cambiamento. Sì. Guarda, ad oggi secondo me, e lo dico con affetto per Balotelli, convocarlo, se oggi ci fossero le convocazioni, sarebbe un azzardo, anche perché comunque Balotelli, volendo o nolente, si porta dietro delle attenzioni mediatiche. Il circo Barlow che conosciamo. Allora, se c'è una superiorità tecnica tale da, allora lo fai. Nel 2012 la coppia Balotelli-Cassano ti ha portato comunque in finale all'Europeo, e in quel momento Balotelli era in una condizione talmente straripante che non ne potevi fare a meno. Ma oggi, onestamente, ci sono questi due ragazzi che sono Immobile e Belotti, che stanno facendo una stagione incredibile, perché Immobile ha fatto 19 gol in campionato, Belotti è arrivato a 15 in stagione mettendoci dentro anche l'Europa League, e poi Belotti, lo sappiamo, è un tipo di giocatore di una generosità incredibile, a me ricorda ovviamente con le dovute proporzioni, per tipo di atteggiamento mi ricorda Rooney, no? Nel senso che è un attaccante d'area di rigore ma che si sacrifica moltissimo e che mette tante energie. Mi ricordo quando Capello mi parlava di Rooney e gli diceva che certe volte lo spronava a giocare di più al centro dell'area di rigore, perché la sua generosità in certi momenti, certo, gli toglieva delle energie. Con tutte le dovute proporzioni, secondo me è la stessa cosa fa Belotti, è un attaccante veramente a tutto campo che fa sempre reparto da solo, quindi insomma, i 15 gol che lui ha fatto in stagione sono ancora più importanti, ancora più significativi. Sì, poi ieri ha steso la Roma e non è un dettaglio. A proposito di questa partita che peraltro tu hai raccontato ovviamente per DAZN, abbiamo detto ieri, Roma che anche lì mancano i timbri dovuti eccetera. Saluta Friedkin, nuovo proprietario, inciampando. Credo che il quarto posto sia fondamentale per la proprietà americana, per iniziare nel modo giusto. Ed è alla portata, la Roma non deve farsi prendere dal panico. È una partita sbagliata quella di ieri, una partita che poteva anche sicuramente finire in maniera diversa, perché comunque la mole di gioco che la Roma ha costruito, sia pure in maniera un po' imprecisa e senza grande brillantezza, però comunque soprattutto nel secondo tempo, quantità di calci d'angolo, di situazioni di spizzate, l'Italiano ha avuto una grande occasione, Sirico ha fatto 2-3 parate importanti, è mancata un po' di freddezza sotto porta, Dzeko è stato forse il peggior Dzeko della stagione, quindi ci sono mille elementi, sicuramente anche qualche episodio arbitrale non clamoroso, secondo me non clamoroso, però insomma sicuramente qualche situazione non è stata favorevole. E la Roma è quarta. La Roma è quarta dopo un girone d'andata in cui ha avuto una marea di infortuni mostruosi. E oggi ha tutte le condizioni per poter portare a casa quello che secondo me è il traguardo della stagione. Non farsi prendere dal panico o dalle polemiche o farsi del male da soli. Guarda, in questo io dico che Fonseca è forse fin troppo sottovalutato. Secondo me è forse coach of the year nel complesso, perché ha ereditato una situazione abbastanza esplosiva di De Rossi, di Totti, che oggi tra l'altro ha detto. Avessi in queste interviste di DAZN che andrà in onda su DAZN, avessi 28-29 anni non rimarrei alla Roma, poi ha messo il solito like su Florenzi in vendita eccetera, poi ritirato, insomma solite cose da social, però io credo che Fonseca in un contesto di questo tipo e con le difficoltà che ha avuto ha portato una serenità che a Roma forse non conoscevano. Ivan, sì, sta facendo un grande lavoro, però non è certamente il coach of the year, che è Asperini, indubbiamente, sì. Quindi proprio con distanze siderali rispetto agli altri. Sta facendo un ottimo lavoro, anche nell'emergenza non ha mai perso fiducia, la squadra ieri, devo dire, in secondo tempo meritava il pareggio, anche ha sbagliato tantissimo, poi Sirigu oggi è il miglior portiere per rendimento del campionato e l'ha dimostrato, l'ha confermato anche ieri. Nel complesso, se arriva quarto fa il massimo. Questa è una squadra che è cambiata per 5 undicesimi, meno ieri, quasi tutti dietro, tra la difesa e centrocampo. Ieri ho visto meno bene Pellegrini, meno bene Zaniolo, male, molto male Dzeko. Mi sembrava che fosse partecipasse a un'altra partita. Però la squadra ci ha provato. Ha una proprietà nuova. Cosa può... Ma tutto per questo, voglio dirti, cioè, considerato il girone d'andata che ha fatto la Roma, la quantità di infortuni veramente da sfiga con la S stramaiuscola, perché alcuni sono di natura muscolare, ma ci sono anche quelli di traumatici, quindi praticamente Fonseca ha fatto un girone, quasi un girone con 30 infortuni e la Roma è quarta, quindi deve semplicemente, ripeto, non farsi del male da sola. E ho apprezzato molto, secondo me, l'atteggiamento di Fonseca ieri, perché è un atteggiamento maturo, atteggiamento di chi in questa situazione non cerca alibi, cerca di evitare ogni polemica, si ricompatta, una partita si può perdere, sicuramente la Roma poteva pareggiare, a un certo punto meritava il pareggio per la mole del gioco costruito, però è anche vero che ieri comunque ha sbagliato la partita, cioè, questo rimane come elemento di fondo, certo. Quando tu concedi nel primo tempo un palo a Belotti, un colpo di testa solo davanti alla porta a De Silvestri, un colpo di testa solo davanti alla porta a Lukic, vuol dire che qualcosa non va, non era la Roma di Firenze, era un'altra squadra, quindi nessun dramma, nessuna tragedia, anche perché arriva una partita molto importante e complicata contro la Juve, e secondo me Fonseca ha dato ieri nel post partita dato il messaggio giusto. Sì, adesso tutti gli occhi su San Siro e poi saluto Ivan Zazzaroni con il ritorno di Ibrahimovic che ci ha tenuto compagnia per tutte le vacanze, qualcuno dice ci regalerà un sacco di titoli sui giornali, di cose da dire, tutto vero. Però soprattutto torna un giocatore di cui abbiamo accusato maledettamente la mancanza. Stasera vedremo com'è l'Inter del dopo feste a Napoli, ma quello di Ibra non è l'unico ritorno vintage, c'è anche Cosmi al Perugia e anche un tuo amico Osvaldo che torna al Banfield. Ne ho parlato l'anno scorso e ti ho pensato l'anno scorso, sì, ma era l'anno scorso, ne ho parlato, Ivan, il vintage va molto di moda. Sì, ma noi siamo un campionato vintage, pensa a Quagliarella, pensa a Buffon, ci sono 38enni, 40enni, pensa a Palacio, quindi è un campionato che apre agli anziani, adesso vedremo se è una soluzione della disperazione, questo mi sembra evidente, vedremo se riuscirà a dare quello che gli hanno chiesto, cioè un po' di personalità a un gruppo che francamente mancante da questo punto di vista. È un campionato, sono 5 mesi in cui non ho capito l'obiettivo, forse l'obiettivo è quello di portare la gente allo stadio e di avere un pochino di appeal che in questo momento la squadra non ha. Ma comunque guardiamo, sarà anche divertente. Hai ragione, ci ha accompagnato per questa sosta, quindi vedremo se effettivamente riuscirà ad aggiungere quello. L'ho visto invecchiato, sinceramente. Ho visto anche nella conferenza stampa le prime rughette. Sembrato anche più tranquillo, cosa di cui però... No, tranquillo ragazzi. L'obiettivo secondo me invece è sicuramente quello di creare entusiasmo, che non è un dettaglio, perché nel gioco del calcio, nel business del calcio, anche se la parola business non ci piace, la parola entertainment ancora meno, però questo è un elemento fondamentale. Cioè, se la gente comunque viene a vedere le partite, se ci sono 65.000 persone, viene l'entusiasmo piuttosto che 30.000 un po' abbacchiate, questo può avere un effetto, può avere un effetto anche sui risultati. Quindi secondo me anche questo aspetto qui vale nel calcio. L'acquisto che fa sognare i tifosi, l'acquisto che ridà speranza, come in questo caso, non è sbagliato. Cioè, una strategia precisa, non è solo marketing, non è solo business, può essere anche un discorso di carattere tecnico. Poi le doti di leadership di Ibra le conosciamo, le doti tecniche le conosciamo altrettanto bene. Chiaramente c'è l'incognita sull'età, però insomma, secondo me male non fa. È un investimento oneroso, ma un investimento secondo me che ci sta per quella che è la situazione del Milan, che deve trovare un salvagente, deve trovare una scintilla, poi è 50 e 50, sarà in grado di... No, però ha ragione Ivan, c'è questo campionato... Ma non sono d'accordo, è una mostra di disperazione, sì, ma è solo marketing, perché non ha obiettivi, Milan. Non ha obiettivi, non può arrivare in Europa League, cioè è molto molto difficile, non fai squadre che hanno molti più punti. Ha una serie di confronti diretti molto complicati, quindi prendere un giocatore di quasi 39 anni, di grande nome, attenzione, e bruciare Piontek, che per il quale avevi bruciato Higuain, per il quale avevi bruciato non c'è una questione tecnica. Però Ivan, cioè, Piontek ad oggi è già bruciato, quindi ho capito, però l'hai pagato... arrivo a dirti che Ibra lo potrebbe salvare, per Piontek hai bruciato Higuain. Impare che Higuain non stia facendo male alla Juventus. Higuain ti era costato 9 milioni di euro l'anno di stipendio, l'avevi preso, gli avevi dato Bonucci. È stata una serie di errori clamorosi. Sugli errori del passato sono perfettamente d'accordo, cioè che Higuain abbia reso poco, che non si sia trovato bene, che Bonucci non abbia spostato gli equilibri, che Piontek sia stato preso e non stia rendendo, questo è indiscutibile, è evidente. Però che oggi l'arrivo di Ibra abbia anche secondo me un valore di carattere tecnico, cioè, poi è chiaro che l'Europa League, noi in Italia siamo anche un po' provinciali da questo punto di vista, tendiamo a sottovalutarla. Per me il Milan è assolutamente improbabile che possa dare in Champions. Non ha obiettivi di classifica, realisticamente non ha obiettivi. In Europa League ci può andare, magari. Sarà difficile, comunque l'Europa League non risolve. Se tu già ricrei entusiasmo in vista della prossima stagione, porti 60.000 persone allo stadio invece che 35.000, cominci a vincere un po' di partite, no, quello è un altro discorso. Europa League, alla fine quello è un altro discorso, cioè il portare la gente allo stadio, sai che l'effetto può durare da 3 partite a 19, questo è evidente, perché se poi Ibra si rivela un flop, non sta bene, cosa un'altra, si torna con il primo. Però è normale che non puoi buttare via mezza stagione e devi tentare una carta che può essere la carta dell'emozione, ma è quella che hanno fatto loro, la carta dell'emozione, senza pensare ad altro, perché giustamente, essendo uno spettacolo il calcio, dovendo essere, devi comunque trovare sempre delle soluzioni che ti consentano di produrre questo spettacolo. Però se tu mi dici che è una questione tecnica, io la rapporto all'obiettivo e francamente mi sembra che l'obiettivo sia quasi raggiunto. Può servire però a far crescere gli altri ragazzetti che di personalità non ne hanno tanta, a riportare disciplina e a regalare qualche punto al Milan, perché insomma Ibra io non credo che avrà la continuità, perché comunque qualcosa ti può dare, qualche punto lo può portare. Sì, ragazzetti, ma qui cantiamo un sacco di cazzate. Suso, Biglia, Romagnoli, Cialanoglu, dove sono i ragazzetti? Bonaventura, dove sono i ragazzetti? Chessi. I ragazzetti sì, sono Conti, Donnarumma è un ragazzetto, Calabria. Hai capito? Calabria, sì, ma Calabria o Conti, uno dei due, e poi Leao. C'è anche questa storia dei due che deve mostrare ai giovani, Benasser mi sembra bruciato, Krunic manco l'abbiamo visto. Cioè, obiettivamente va tutto bene, nel senso che io approvo qualsiasi tipo di soluzione quando si tenta di dare alla gente qualcosa, però se si vuole giustificare tecnicamente questo acquisto, secondo me si fa un errore. Ciao Ivan, cosa fa il Bologna? Sempre 1-0? Sempre finirà così, ormai sono disperato, pensavo 1-1, ma... Ciao Ivan. Allora, aspettiamo, poi ci colleghiamo con stasera, naturalmente c'è Dario Ricci, aspettiamo il debutto di Ibrahimovic, partirà dalla panchina, sì, a un certo punto si alzerà dalla panchina, quello che tutti stanno aspettando. Andremo anche a Torino più tardi, a proposito di Juventus, Pierluigi. Oggi dovrebbero giocare, allora giocherà Dybala e non Higuain. Dovremmo vedere in campo Ramsey e Rabiot, altri due oggetti piuttosto misteriosi del mercato juventino, che prima riflettevo non ha fino adesso prodotto dividendi. No, sicuramente Rabiot lo sappiamo, Ramsey lo sappiamo da sempre ha un po' di fragilità, e quindi così come sarà sicuramente un affare prenderlo a parametro zero, come quasi tutti i giocatori presi a parametro zero, perché non paghi il cartellino, però questa cosa si sapeva dall'inizio, insomma. E anche negli anni di Arsenal ha avuto tantissimi problemi di natura fisica, quindi. E Rabiot, per caratteristiche fisiche, secondo me è un giocatore che ha bisogno di trovare un po' di continuità. Ha giocato pochissimo nella seconda parte della stagione scorsa al Paris Saint-Germain, proprio perché c'erano, diciamo, controversie di carattere contrattuale, e mi pare chiaro, insomma, che abbia bisogno per struttura fisica di un po' più di continuità, quindi è un'occasione. È chiaro che sono due giocatori che fin qui hanno dato poco, soprattutto Rabiot, secondo me. Pesa che Ramsey comunque qualche sprazzo nelle occasioni in cui sono impiegato l'ha. Pensa che quel demonio di Zazzarone aveva ragione, ha pareggiato il Bologna al 94esimo con Orsolini, quindi Bologna-Fiorentina 1-1. No, Iachini che torna dunque sulla panchina Fiorentina, anche lì vintage molto di moda. La Fiorentina ha ripescato una sua vecchia bandiera Iachini, il Genoa ha ripescato una sua vecchia bandiera Nicola, tutti sulla scia di Ibra, e addirittura Perugia che ha ripescato il nostro amico Serse Cosmi, che avrà da fare, quindi non potrà più risponderci al telefono per un po', forse. Grandi suggestioni, no, di fine anno. Ci risponde. Ma sì, però ha ragione Ivan quando dice che è un campionato vintage, anche perché non siamo il primo campionato del mondo, purtroppo, dal punto di vista economico, quindi Cristiano Ronaldo da questo punto di vista è un'anomalia nel nostro calcio, no? I campioni di un certo livello, i fatturati di un certo livello li fanno da altre parti, quindi in qualche circostanza si deve ragionare di fantasia, e la fantasia qualche volta ti porta a investire, a dare fiducia, a scommettere su delle vecchie storie, appunto, di grande suggestione, ma chiaramente un po' datate. E nel caso di Ibra, nel caso di Ribéry, certo, che è un giocatore comunque qualche sprazzo straordinario l'ha fatto, ma è ovvio che non c'è una correlazione precisa con l'età, però è chiaro che se non sei più un ragazzino è anche più probabile che ci possa essere. Ma io sarà l'età, ma il vintage a me piace, cioè sarà, sì, perché sono vintage, sono anch'io. Però non mi dispiace, insomma, mi sembrano suggestioni comunque positive. Poi meglio il vintage di qualità 5 stelle, 6 stelle, 10 stelle, piuttosto che la mediocrità, ecco. Quindi da questo punto di vista sicuramente è comunque qualcosa di meglio, nella speranza che arrivi un giorno non lontano in cui il nostro calcio sia la Premier League. I migliori fatturati in giro per il mondo, i migliori campioni in giro per il mondo, e da questo punto di vista siamo ancora lontani. Sì, intanto Milan che entra in campo per il riscaldamento, immaginatevi un po' l'ambiente lì. Senti, amico mio, tra poco ti saluto perché devi preparare Tiki Taka, torni a lunedì questa sera, arrivi dopo questa giornata interessantissima. Arrivo per una settimana, non so dirti esattamente il motivo, però insomma è un po' di vacanza, sì. E quindi arriveresti allora? Se tu arriveresti? No, ci vediamo il 13, in TV ci vediamo il 13, però c'è la Befana, c'è anche Napoli-Inter volendo. Guarda, le partite dopo la pausa, così come le partite dopo le pause delle nazionali, hanno sempre statisticamente un margine di rischio superiore. C'è qualcosa da Roma ieri, e potrebbe toccare anche all'Inter. Il Napoli si è sicuramente ricompattato, è una partita, secondo me. Il Napoli è una squadra comunque con del potenziale, quindi vale sia per Napoli-Inter oggi che per Lazio-Napoli che arriva sabato, che per Napoli-Juve che arriverà fra un po'. Il Napoli è una squadra che se fa la partita, ma questo pure con Ancelotti, cioè non soltanto adesso con Gattuso, pure con Ancelotti il Napoli se fa la partita può mettere in difficoltà chiunque, sa qualcosa del Liverpool che ha perso l'unica partita della stagione e l'altra l'ha pareggiata, certo, proprio contro la squadra che allora era di Ancelotti, quindi è una partita complessa una partita che ci dirà molto, parlarne prima è quasi impossibile, la partita ci dirà molto sul livello di tenuta anche mentale, secondo me, dell'Inter, sul livello di crescita del Napoli, che a Reggio Emilia onestamente nei primi 60 minuti aveva fatto male, però poi il risultato fa opinione e comunque il risultato è arrivato anche perché c'è stata una grande mezz'ora finale, quindi sicuramente ha la possibilità di approcciare questa partita con un entusiasmo o almeno con una serenità molto diversa, con un po' più di tranquillità di un mese fa, ecco. Pesa Zazzaroni mi ha mandato un messaggio 1-1 al 92esimo perché non mi sbaglio mai, mi scrive. Vabbè. Ciao Pier, ci sentiamo domani. Ciao un abbraccio. Ciao. Allora, dunque, riassumendo, 800 24 00 24, numero verde se volete chiamare, ovviamente siamo in diretta. SMS, WhatsApp, vocali 349-238-6666. Adesso ci fermiamo un attimo, poi torniamo collegandoci con San Siro subito, perché c'è Dario Ricci, perché è ovviamente il campo sotto stretta sorveglianza in questa giornata di partite. Ci collegheremo anche con Torino per vedere come sono messe le cose. By the way, non credo che la Juventus la porti a casa contro il Cagliari, che prima della sosta era in leggera flessione, però non mi fiderei minimamente della squadra di Maran, grandissima sorpresa in questa stagione. Insomma, tutto questo tra poco. Chi ha visto giocare Ibrahimovic nell'ultimo anno in Inghilterra, vedendo tutta questa enfasi per l'arrivo di Ibrahimovic in Italia, si mette a ridere. Quanta pubblicità per niente. È finito, ragazzi, bisogna rendersi conto, è finito e patetico. Tutti convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presento. Da MediaWorld sono iniziati i mega sconti, come smartphone Samsung Galaxy A30s con uno sconto del 20% a 224 euro. Fino all'8 gennaio scopri tanti altri mega sconti in negozi online. MediaWorld, fatto apposta per me. Avete appena sentito un'esclamazione di stupore di alcuni sherpa peruviani di fronte a una smart elettrica. Psst, e basta ridere. In effetti, che ci faceva sulla cima di una montagna? La cosa più bella da fare con una smart elettrica è guidarla in città. Nuova Smart Q42 All Electric Now, 100% elettrica, 100% per la città. Guidala subito con My Mobility Pass, il noleggio Mercedes-Benz tutto incluso, con zero anticipo e wallbox. Datti una scossa su smart.com. Smart. Convocati. Ma voi l'avete visto giocare Piontek o Leao? Ma 10 volte Ibrahimovic su una gamba, magari mezz'ora. E soprattutto se c'è lui, 70.000 San Siro. 65.000 per la precisione. Comunque facciamo così, dato che avrete capito, c'è poco da capire, Ibrahimovic e il suo ritorno sono l'argomento del giorno. 800 24 00 24 per intervenire mentre aspettiamo la partita. WhatsApp vocali 349 238 6666. Allora facciamo così, primo collegamento con San Siro dove c'è Dario Ricci, il nostro inviato lì. Dario. Diretta qui da San Siro, manca davvero poco al ritorno ufficiale di Zlatan Ibrahimovic in rossonero. Allora ne parliamo con Jennifer Wegerup, che è giornalista della TV svedese ma che ha seguito tutta la carriera di Ibra fino a questo clamoroso ritorno. Beh, Jennifer, ti chiedo subito, te l'aspettavi? Che sarebbe tornato? Sì. È stata dura, insomma, come hai visto, c'è stato da aspettare tanto, lui ci ha pensato molto bene, però in qualche modo forse c'era anche nel destino di Zlatan che sarebbe finita così. Senti, che Ibra ti aspetti? Hai avuto modo già di parlarci con lui in queste ore, in questi giorni, visto il tuo rapporto privilegiato? No, non ci ho parlato personalmente in questi giorni, ci siamo visti in conferenza stampa, insomma, ho fatto la domanda, mi ha risposto, ho fatto una bella lunga risposta. Io non ho mai visto Zlatan come l'ho visto in quella conferenza stampa e anche al ritorno, quando è sceso dall'aereo, quando ha salutato i tifosi. Lui si è comportato proprio come io avevo detto, anche scritto che si doveva comportare. Non so che l'impressione tu hai avuto, però l'ho visto molto d'uomo, molto tirato, molto tranquillo, molto deciso. Istituzionale quasi. Sì, non ha fatto, sì, ha fatto un po' di battute, però era più serio e meno di queste. Qualche volta ha fatto, io sono il grande Zlatan, niente di questo. Sarà l'età, dici? Sì, l'età, ma io penso anche una decisione, perché comunque quando ha lasciato gli Stati Uniti ha fatto un po' di questa battuta, un po' da, sì. E invece io penso veramente che lui adesso abbia capito che il suo ruolo al Milan sarà fare il grande leader, fare l'uomo, magari non discutere con i giornalisti, non fare, ma veramente far vedere tutto quello che lui ha dentro di sé. Io me lo auguro perché gli voglio bene, io so che lui ce l'ha le capacità di essere questo grande uomo, grande leader se vuole. Grande giocatore, ma in quest'ottica potrebbe anche essere un grande dirigente o anche un grande allenatore. Questo è da vedere, io ne ho parlato con Zlatan, ho chiesto varie volte se vuole fare l'allenatore, lui non è mai stato molto entusiasta, e vediamo, poi tutto cambia nella vita come abbiamo visto, quindi vediamo, sarà interessante, sarà anche molto interessante vedere adesso come sarà nel campo dopo tutto questo tempo, come abbiamo sentito anche l'altro giorno lui ha sottolineato più volte che non è più quello che era, magari per un po' abbassare anche le aspettative. Certo, allora insomma vedremo un po' il responso del campo, intanto grazie a Jennifer Begerup e linea allo studio. Ma secondo me il problema non è prendere il 38enne campione, è prendere un 38enne che è tre anni, come se fosse tre anni che gioca in Serie C, lo porti in Serie A e pensi che svolti una squadra. Sono tre anni che si sta allenando, ma si sta allenando in un'altra categoria, è lì l'unico vero proprio dubbio. Beh, dubbi ce n'è più di uno, grazie a Dario Ricci che tra poco ritroviamo, abbiamo sentito con Jennifer Begerup che ha detto cose tra l'altro molto interessanti. Vi avevo anticipato un salto a Torino, ringrazio Fabiana Della Valle inviata dalla Gazzetta dello Sport, ciao Fabi, ciao Fabiana. Ciao. Ciao. Ciao, buongiorno a tutti. Allora mi confermi che Di Higuain va in panchina e Dybala gioca, giusto? Esatto, te lo confermo. Per sì, il sì. Resto? Allora, per il resto, almeno rispetto alla formazione diciamo presentata da noi della Gazzetta oggi, non ci sono novità, nel senso che c'è Demiral al posto di De Ligt, come avevamo ipotizzato, c'è Rabiot che sostituisce Bentancur squalificato a centrocampo e c'è il ritorno del trequartista, quindi con Ramp, cioè trequartista diciamo più classico nel senso del termine, nel senso che non c'è il tridente pesante con Ronaldo, Dybala e Higuain insieme, ma appunto Higuain in panchina e Ramsey trequartista, ma Sarri l'aveva un po' fatto capire ieri perché teme molto il centrocampo del Cagliari, sì. Quindi voleva diciamo un giocatore meno offensivo, un po' con caratteristiche un po' più difensive in quella posizione, quindi ha visto bene Ramsey e tornerà titolare, anche se nelle ultime apparizioni non aveva particolarmente convinto. Vedi, il punto è questo, ne parlavo ora con Pierluigi Pardo, oggi vedremo buona parte del mercato juventino in campo, De Ligt l'abbiamo visto un bel po', ha convinto a tratti, no, stavamo pensando, riflettendo sul fatto che fino adesso quel mercato non ha pagato tutti sti dividendi. No, anzi, diciamo che finora la stagione l'hanno retta quelli che sarebbero dovuti partire, insomma, perché tra Dybala, Higuain, vabbè, lo stesso Matuidi che insomma sembrava uno destinato alla partenza, Khedira che poi adesso si è infortunato, però nella prima parte di stagione era titolare praticamente sempre, quindi insomma il mercato speriamo, almeno i tifosi della Juve si augurano di vederlo a gennaio, insomma adesso Rabiot ha una buona occasione perché comunque con Bentancur che salterà le prossime tre partite per squalifica ed Emre Can che è praticamente non considerato da Sarri, mi sembra evidente, perché se preferisce far giocare comunque a destra, avendo un mediano di ruolo, preferisce farci giocare appunto Rabiot, che comunque è sinistro, allora cioè, significa che proprio non lo vede, mi sembra inevitabile la sua partenza ormai, soprattutto questione di ore. Sì, e quindi per Rabiot comunque è un bel attestato di fiducia, ecco, insomma, però deve dimostrarla, perché finora anche lui è stato... non ha giocato tantissimo, però è stato intermittente, ecco, insomma, non sempre ha convinto. Assolutamente, è già tempo degli esami, perché in prospettiva arrivo Kulusevski, questo è stato credo anche l'unico grande colpo della Juventus a gennaio, non mi aspetto tante altre cose. È già tempo degli esami per Bernardeschi, per Douglas Costa, eccetera. Bernardeschi se ne parlava ieri, l'ha detto anche Sarri, come sa, in conferenza stampa, si lavora su un ruolo da centrocampista, non è esattamente il suo. Ieri però notavo che non è facile trovare un giocatore che ha tutta questa disponibilità a mettersi dove l'allenatore gli chiede senza rompere troppo le scatole, perché siamo pieni di giocatori che per favore giochi un metro fuori dalla tua piastrella, no, quello non è il mio ruolo, mi viene sempre in mente Insigne, chissà perché, non è il mio ruolo, non riesco a rendere lì, quindi non va bene. Questo qui l'hanno fatto giocare in tutti i ruoli salvo portiere. Sì, ma infatti questo credo che sia un po' il suo punto di forza e anche diciamo l'elemento su cui dovrà far leva poi in questi mesi, perché insomma Bernardeschi anche lui è stato un po' il punto interrogativo di questo inizio di stagione. È vero appunto che non ha praticamente mai giocato nel suo ruolo, perché anche il trequartista non è, anche quando il trequartista non è che lui sia proprio un trequartista, in realtà lui è un esterno, e da esterno offensivo non ha mai giocato, però con Allegri l'anno scorso aveva già fatto la mezzala, l'aveva fatta comunque con profitto. È un giocatore che comunque fisicamente, soprattutto per le sue potenzialità, piace molto a Sarri. Si è un po' lamentato qualche volta in conferenza, ha detto più volte deve tirar fuori la personalità, deve crescere da questo punto di vista, deve essere più sicuro. Poi ha pagato sicuramente anche il fatto che allo Stadium insomma non sono molto teneri nei suoi confronti, l'hanno spesso fischiato, quindi è lui sicuramente ne ha risentito di questa cosa. E adesso io credo che comunque nel ruolo di mezzala possa ritagliarsi uno spazio dignitoso. Adesso starà lui anche, che ha fatto comunque bene negli anni passati alla Juve, dimostrare di poter restare qui. Lo scorso a tratti ha giocato in maniera straordinaria con Allegri nel ruolo di mezzala, dietro le punte. Infatti. Senti, condivido con te un'ultima considerazione prima di lasciarti andare alla partita. Mi sembra un Sarri particolarmente preoccupato di cercare equilibri che in fondo fino adesso non ha ancora trovato, cioè aggiusta le formazioni in funzione e della presenza di Ronaldo e delle tre punte eccetera, però mi sembra che non abbia ancora trovato gli equilibri che sente suoi, il vestito che si sente meno addosso. Esatto, secondo me questa cosa a lui, anche se ovviamente cerca di non lasciarlo vedere, un po' gli dà parecchio fastidio, perché lui tra l'altro è un allenatore abituato in passato ad avere i suoi uomini, la sua squadra, ad avere comunque la sua formazione, a cambiare pochissimo. Quindi è vero che magari anche al Chelsea ha gestito la squadra in maniera diversa, ha imparato un po' a fare un po' più di turnover, però io credo che il fatto di non aver ancora trovato un assetto definitivo, che è quello che servirà, il primo proposito dell'anno nuovo, insomma, cercare una squadra più o meno definitiva, perché io credo che definitiva al 100% con tutti i giocatori che ha la Juve sia impossibile, però comunque cercare un assetto che almeno cioè standard, che con alcune variazioni sul tema poi di partita in partita, soprattutto in questo periodo che non ricomincia la Champions, sì è vero che c'è la Coppa Italia, però magari per due mesi gli impegni saranno minori rispetto a quelli dell'ultima parte del 2019, lui punterà soprattutto su questo, cioè trovare un assetto comunque più o meno standard per la sua squadra, perché per lui, per come gioca lui, credo che sia fondamentale, anche se ripeto, la Juve lo potrà fare di meno che rispetto a quanto lo aveva fatto al Napoli, perché ovviamente stiamo parlando di due rose dalle potenzialità completamente diverse. Sì, anche di giocatori diversi, di pesi contrattuali diversi, di insomma una dimensione che non è esattamente quella a cui era abituato. Grazie Fabiana, buon lavoro. Ciao. Grazie a voi, ciao. Buona giornata. Vedo Paratici che sta parlando con Sky sempre a proposito di Juve. Ma Rabiot è arrivato dopo 8 mesi di inattività, non giocava una gara da 8 mesi, quindi è normale che già solo fisicamente dovesse riprendersi, adattarsi a dei ritmi nuovi di allenamento, poi adattarsi a un paese nuovo, e quindi logicamente un pochino ha pagato all'inizio, però quando ha giocato ha sempre fatto partite interessanti, tra l'altro le ultime tre le aveva giocate prima della Supercoppa di campionato, le ha giocate tra Champions, le ultime due di campionato le aveva giocate con continuità e bene, molto bene. A Genova secondo me benissimo, secondo me è stato il migliore in campo. Quindi siamo fiduciosi, siamo sempre stati tranquilli e convinti che sia un calciatore molto importante, l'ha già stato nel Paris, quindi non lo scopriamo certo noi oggi, è una sicurezza, non è un dubbio o un punto di domanda. Aggiungerei Ale al discorso del centrocampo, anche quello di Ramsey, c'è un Ramsey che sta bene. Parole di Paratici, difesa d'ufficio, condivisibili. Non so come la pensate voi, 800240024, condivisibili fino a un certo punto. In realtà Rabiot, che pure è un giocatore davvero interessante, su questo non c'è dubbio, fino adesso è stato un oggetto misterioso per ragioni varie assortite, varie ed eventuali. E lì ha ragione Paratici, però alla fine, fino adesso Rabiot ancora non pervenuto, Ramsey pervenuto ma molto a intermittenza, complice anche tanti infortuni. De Ligt si è trovato a giocare con alterne fortune, inutile tornare su questo discorso, tanto lo conoscete perfettamente. Resta il fatto che c'è un mercato che Paratici e Nedved hanno realizzato, che fino a questo punto non ha ancora prodotto quello che credo anche i tifosi juventini, se volete intervenire ditemelo, si aspettavano. Traffico, torniamo. siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter. O cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati. Operazione Ibra al Milan, a me pare come mettere gli interni in pelle su una 127 rustica. Bisogna cambiare macchina, non i sedili in pelle. Grazie dei WhatsApp, signori. 349-238-6666. Io penso che è ancora più discutibile degli interni in pelle sulla 127, è ancora più discutibile del rendimento di Ramsey, sia la nuova conciatura di Cristiano Ronaldo, sulla quale io noi pronuncio tu schiattone, no, annuisci, non ci siamo. Dario Ricci, rieccoci. Eccoci qua. Capello anche col codino, quello di Ibra, quindi almeno in questo sì. Duello alla pari. No, beh, alla pari no, no, abbi pazienza, alla pari no, quello di Ronaldo peggio. Beh, no, no, su quello sono d'accordo con te, su quello sono d'accordo con te. Chiedo subito questa importantissima domanda al nostro ospite, Furio Fedele, amico e collega del Corriere dello Sport. Furio, io e te non possiamo parlare di capelli e quello è un argomento a parte. Io figurati. Carlo pure, ma insomma quelli che ce l'hanno non sembrano usarli al meglio. No, beh, per me, buongiorno innanzitutto, ciao, per me da anni che non è più un problema, anche perché poteva essere un problema. Però mi sembra che al di là appunto delle battute, Ibrahimovic si è atteso forse dall'impresa più importante della sua vita, perché è veramente, anche se ieri Pioli l'ha negato, il salvatore della patria, perché prende un Milan a 14 punti dalla zona Champions, ma soprattutto un Milan che ha soli 7 punti dalla zona retrocessione. Come diceva Boskov, i numeri non dicono mai le bugie, e questi sono i numeri di un Milan in questo momento fallimentare sotto tutti i punti di vista. Ecco, cosa può dare questo Ibra, perché ha parlato un po' da allenatore, un po' da calciatore, un po' forse anche da dirigente, che ruolo può avere e cosa può dare secondo te? Come cantava il grande Lucio Battisti, lo scopriremo solo giocando più che solo vivendo. Partendo anche dalla panchina oggi. Partendo dalla panchina, io non so se ha mai visto la panchina, non so se c'è seduto in vita sua, però forse mi sarei atteso da lui, io non sono un romantico, però ogni tanto credo ancora negli eroi, una partenza subito dal primo minuto per dimostrare che era ancora Ibra. Invece bisogna cominciare a fare i calcoli, che non l'ultima partita la giocata è il 20 ottobre, che comunque gli anni sono quelli che sono, ma la verità è che io mi sarei auspicato, se veramente aveva tutta questa voglia di Milan, che fosse arrivato ai primi di dicembre, non ai primi di gennaio. Quindi Milano comunque è una società, il Milan è una società gradita, ma soprattutto Milano è una città gradevole per lui e la famiglia, poteva fare un mese di allenamento vero. Vediamo, è un mese di gennaio impegnativo, sono 4 partite di campionato e speriamo 2 di Coppa Italia, perché prima bisogna eliminare la SPAL negli ottavi. Ibrahimovic è fondamentale, se è ancora il vero Ibrahimovic, quello di 10 anni fa. 10 anni sono tanti anche per lui. Qualcuno dice, ma per esempio Ivan Zazzaroni prima, tuo direttore, ma arriva per fare cosa? Non sono chiari gli obiettivi di questa squadra, di questa stagione. Qualificazioni estremis all'Europa League, vabbè, mettiamola pure, però non, certamente non è quello un risultato che può essere accettabile. Quindi, mossa della disperazione, Viagra per i emotivo per i tifosi milanisti, per l'ambiente Milan, per riaccendere l'entusiasmo, per che cosa? Qual è l'obiettivo? Non lo so, in realtà i tifosi sono il Viagra per il Milan, perché i veri fenomeni sono proprio i tifosi del Milan. Quest'anno, oggi saranno ancora più di 60.000. L'hanno una media presenza inferiore solo a quella dell'Inter, e come si può intuire, diciamo che il cammino delle due squadre è decisamente differente, soprattutto in campionato. Io non, già un anno fa avevo dei dubbi su Ibra, e lui stesso li aveva, perché era reduce dal crociato. Adesso i miei dubbi restano, poi se entra e fa 2 gol, sperando che i 2 gol non li faccia prima contro la Sampdoria, perché dice Boban molto bene che lo 0-5 contro l'Atalanta è stato umiliante e indelebile. È una macchia incancellabile. Speriamo che il panettone, lo spumante, non so che cosa abbia almeno attenuato questa macchia, l'abbia un po' sbiadita. No, beh, lì ci deve pensare il numero 21, qualche interista già ironizzato, manca un meno su quella maglietta, meno 21 di stacco dall'Inter, bla bla bla. Però il discorso è che secondo me la vera utilità di Ibrahimovic può essere quella. Zazzaroni mi ha contestato la definizione di ragazzetti sui giocatori del Milan. Posso usare la definizione giocatorini, perché se vuoi costruire una grande squadra, non so chi può essere funzionale di questo gruppo alla costruzione di una grande squadra. Magari con Ibrahimovic qualcosa in più si capirà, perché certamente non saranno più ragazzetti, ma molti di costoro da Ibra hanno da imparare un sacco di cose, compreso come si vive il calcio ad alto livello. Ti ricordi nel precedente collegamento, nell'ultima partita, non del Milan, dove ci siamo sentiti, ti avevo fatto notare che questa squadra comunque con Gattuso era arrivata a un punto dalla zona Champions e non era una squadra di fenomeni. Secondo me il problema è sempre nel manico. Il Milan è riuscito a sbagliarlo due volte, prima con Giampaolo e poi onestamente con Pioli. Io avrei riconfermato Gattuso a giugno e come seconda opzione avrei preso subito Spalletti. Mi sembra che né Giampaolo né Pioli abbiano la forza, Giampaolo l'ha dimostrato, Pioli rischia di dimostrarlo, abbiano la forza di riportare il Milan quantomeno in una zona, non dico di Champions League, ma addirittura di Europa League. Sì, credo sia così, credo sia così. Non so se l'ingaggio di Pioli sia stato sbagliato, quello di Giampaolo lo è stato di sicuro, lo documentano i fatti. Dario, San Siro com'è? San Siro ribolle, sentiamo, non vediamo l'ora anche noi con Furio di tuffarci sulle gradinate, perché si sente proprio questo entusiasmo. E riallacciandovi anche al vostro discorso, forse questa panchina è proprio il risultato di questa mediazione, no? Con Ibra che si autoconvoca e si mette già a titolare e Pioli che tira il freno, forse con grande saggezza, anche perché oggi, tra l'altro, nota di servizio di colore, giornata freddissima, temperatura veramente di 1-2 gradi superiore allo zero, non l'ideale per muscoli che magari devono ritrovare non tanto la forma fisica ma anche quella reattività psicofisica che inevitabilmente nella partita di alto livello bisogna avere. Però insomma sono discorsi che facciamo noi tra tecnici. Qua questi 65.000 aspettano solo un minuto, quello in cui Ibra tornerà rosso e nero a tutti gli effetti. No, ma la grande suggestione è ovviamente quella, sono emozioni, se vi pare, se vi piace. Per chiudere, Dario, invece, tutto il resto della formazione, Sampdoria compresa, confermata, vero? Allora, la formazione del Milan, vado subito a leggertela, quella confermata con Donnarumma in porta, difesa da destra a sinistra con Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez, centrocampo con Krunic, Bennacer, Bonaventura, in avanti Piontek, centravanti spalleggiato da Suso e Çalhanoğlu, novità in quella della Sampdoria che schiera Audero, poi in difesa Berezinski, Tonsby, Colley, Murru, centrocampo con Chabot, Ramirez, Vieira, Linetti, Gabbiadini, Quagliarella di punta. Bene, queste formazioni, allora tra 5 minuti sul sipario questa prima di Ibrahimovic a San Siro, e poi c'è anche insomma poi altri argomenti di cui tratteremo domani, compresa l'Atalanta dei Miracoli. Tutti ditemi, me lo scrivete anche, ma l'Atalanta gioca in casa con il Parma. Sarà interessante qui vedere Kulusevski. A proposito di Kulusevski, è stata fatta un po' di dietrologia in settimana, condivisibile fino a un certo punto, e adesso la Juventus quando va a giocare a Parma, Kulusevski come giocherà, insomma mi sembrano davvero questi argomenti di retroguardia. Adesso andiamo a guardarci le partite in questa strana Befana. Io leggo molti WhatsApp a questo punto, tornassero a giocare anche Maldini e Boban, così facciamo uno per reparto, scrive Lorenzo. C'è molto scetticismo sul ritorno di Ibra. C'è chi chiede di parlare di basket. Complimenti a Pallacanestro Cantù per la vittoria nel derby. Beh sì, quella è una parentesi che avrei fatto volentieri. Oggi sono le partite di calcio, ma certamente la facciamo nei prossimi giorni, anche perché si è composto il tabellone delle Final Eight di Coppa Italia, con Bologna, con la Virtus che è campione d'inverno, che affronterà da favorita questa manifestazione, con Milano, io credo, pesantemente in difficoltà. Ieri Messina, dopo aver perso questa partita, ha detto: beh, abbiamo esaurito il bonus, abbiamo esaurito il credito che avevamo nei confronti di questa gente. Probabilmente è vero, uno dei grandi personaggi della Milano sportiva di questi giorni. Dunque, torniamo domani. Io ringrazio Claudia Schiattone, nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia. Guardiamoci le partite. Che volete fare domani, tutti convocati alle 14. Minchia, è stato una montagna russa. Ci vediamo domani. Enjoy. Saluti.